Ruggero Bonghi, grande oratore, dicitore tormentato. Dell'oratore non aveva tutte le qualità accessorie. La voce era un po' sottile e secca, e un tantino, forse più per abitudine che per natura, nasale. Aveva l'R schietta, ma a quando la faceva un po' gutturale, sia per l'abitudine al francese, sia per uso contratto fra i nobili. La pronunzia avrebbe voluto che riuscisse toscana, e in gran parte toscaneggiava di fatto, ma dava sistematicamente in certi vezzi che gli si era imposti perché sedotto da analogie fallaci. Pronunziava, poniamo, forte o corpo, negletto o petto, con la vocale chiusa, perché credeva che anche in simili voci, fra il toscano e il napoletano, vi sia quella differenza che è imposto o fioretto. E diceva viaggio come un toscano direbbe biagio. Se proferiva soggetto, cadeva in tutti e due codesti falsi toscanesimi. Spesso metteva l'S dolce fuori di proposito. Questa era la sua fonetica personale. Gli avveniva quel che a molti, che toscaneggerebbero meglio se in certi casi si rimanessero al proprio dialetto. Francesco D'Ovidio.